to not know why. Leggere è un modo per viaggiare. Yeah! What's up, y'all? This is your boy T-Mike. You see, I usually do songs with, like, hooks and concepts and shit, right? But fuck that, man. I'm trying to go platinum. So I'm about to rock this shit. Check this out, y'all. Direi che è il modo più bello per viaggiare. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old. Eccoci, buon pomeriggio, buona domenica a tutte e tutti, siete all'ascolto di Poio It, Lettere Contrarie, la trasmissione dedicata alla letteratura di Radio Wombat. Oggi più che mai perché abbiamo imminente qua a Firenze il Festival della Letteratura Sociale che si organizza l'ultimo fine settimana di maggio, da 6 anni in polveriera. Ne parleremo un po', ma prima annuncio che la puntata di oggi è una puntata particolare perché non la stiamo facendo in diretta assieme a Edoardo Olmi, che anche oggi condurrà assieme a me. L'abbiamo infatti registrata ieri sabato, oggi invece è domenica 9 maggio, la rimettiamo alle 15.30 come se fosse in diretta, come sempre ogni seconda domenica del mese qui su Radio Wombat. Sarà disponibile sempre anche in podcast o in replica, e la puntata successiva non sarà a giugno perché seguiremo proprio con la radio in diretta i 4 giorni del Festival di Letteratura Sociale. Abbiamo pochi mezzi tecnici in questa registrazione, quindi forse non ci saranno musiche, non saranno in sottofondo, ora vediamo dopo se le riusciamo magari a montare nella ritrasmissione, quindi verrà una puntata un po' più breve, un po' particolare, però davvero recupereremo seguendo in diretta dal 27 al 30 maggio presso il chiostro della Badessa in via Santa Reparata tutto il Festival della Letteratura Sociale, cosa che Radio Wombat fa in realtà già dal primo anno, questo è il sesto che si organizza. Tutti i tavoli, gli eventi degli anni scorsi sono disponibili sul sito della radio, abbiamo archiviato e registrato tutto quanto, si possono riascoltare, sarà così anche quest'anno. E quindi parliamo subito un po' del festival e più tardi la parola a Edoardo Olmi per introdurre il Red Carnation, l'evento di cui già avevamo parlato la puntata scorsa, che è stato organizzato dalle Brigate dei Poeti Rivoluzionari Internazionali, e vi ha preso parte lui, alcuni degli autori, alcune delle autrici e delle poetesse che abbiamo sentito nei mesi scorsi proprio qui su PoiUIT. Leggeremo qualche poesia, parleremo di questo evento e poi l'appuntamento a fine maggio. Dunque, il programma del festival è ancora non pubblico, ma fra poco lo diremo un po' in anteprima, anticiperemo alcune delle cose che vi si svolgeranno. Intanto è attivo un crowdfunding per una raccolta fondi per sostenere il festival. La si può trovare su sostieni.link/28099, sostieni.link/28099, oppure cercando su produzionidalbasso.com Festival della Letteratura Sociale. Lì c'è anche una descrizione con il perché del festival, la breve storia della Polveriera Spazio Comune, il luogo nel quale il festival viene organizzato già dal primo anno, e altre informazioni. Ad esempio, il perché, e lo leggo, ovvero perché viene organizzato questo festival? Ecco la risposta: perché non ci piacciono le vetrine e i saloni del libro canonici, che operano una divisione fra chi produce e chi si nutre di cultura. Fra una cultura alta, fatta di grandi nomi e grandi investimenti, e una bassa, che crea pochi profitti e poca pubblicità. Noi vogliamo fare ed essere altro. Crediamo nel potere della letteratura di cambiare in meglio il mondo. Crediamo nel potere delle persone che lottano per cambiarlo. Crediamo che tutto questo debba essere svincolato il più possibile dalle esigenze ristrette del mercato e liberamente fruibile da chiunque, per libero e comune progresso umano. Cosa vogliamo fare? Il nostro desiderio, anche quest'anno, è quello di organizzare il Festival della Letteratura Sociale, autogestito e autofinanziato nonostante le difficoltà che stiamo vivendo. Anzi, a maggior ragione, pensiamo che sia quanto mai importante oggi dare voce e spazio a tutte quelle forme di editoria indipendente e che sia fondamentale creare continuamente occasioni di condivisione e incontro attorno ai libri per tutte e tutti, e come sempre ci teniamo a mantenere la gratuità dell'evento, nella convinzione che la cultura abbia un valore incommensurabile e che la sua fruizione non possa essere limitata dai biglietti d'ingresso. Perché viene chiesto questo aiuto? Perché, beh, quest'anno non è praticamente mai stato possibile organizzare eventi, raccolte fondi e altri autofinanziamenti, e quindi con questo sistema si sta cercando di rendere possibile il festival anche quest'anno per la sesta edizione. La raccolta fondi sta andando bene, siamo a quasi la metà dei fondi necessari, o meglio quelli richiesti. Poi il festival sarà organizzato comunque a prescindere da quanti saranno i fondi che arriveranno. Viene precisato sempre nella pagina di Produzioni dal Basso dedicata al festival per cosa nel concreto, e viene precisato che i fondi raccolti saranno spesi per i rimborsi viaggio, il pernottamento degli ospiti, la diffusione del festival tramite quindi volantini, locandine, programmi cartacei, eccetera, l'acquisto di cibo e bevande che saranno serviti durante l'evento, e la strumentazione, i materiali, quindi le attrezzature per allestire gli spazi, svolgere gli eventi, nonché l'acquisto dei libri durante le giornate, per tutto quanto sarà necessario a garantire la massima igiene e tutela per tutti i presenti. C'è infatti la volontà di fare questo festival ancora una volta in presenza. L'anno scorso, che non è stato possibile farlo a maggio, è stato spostato in autunno, ma anche nella sua quinta edizione ha trovato una forma fisica in presenza con tutte le attenzioni del caso per la situazione sanitaria, cosa che avverrà ovviamente anche quest'anno. Altre informazioni sono il fatto che su una pagina Facebook che si chiama Sesto Festival della Letteratura Sociale di Firenze ci sono o saranno tutte le informazioni del caso. Vi si può trovare anche il link comunque su la bellissima punta, lapunta.org. C'è anche un evento Facebook, non so dire il link, ma non ce ne frega niente. E invece ci importa di ribadire che tutto il festival sarà seguito da Radio Wombat, ritrasmesso in diretta sulle 13:59 AM o in streaming su radiowombat.net, e tutti gli eventi saranno poi, tutti i tavoli, le presentazioni e quant'altro sarà poi riascoltabile nei giorni immediatamente dopo il festival, perché è reso disponibile qui sugli archivi della radio. Ricordo quindi infine il link per la raccolta fondi che è dalla pagina produzionidalbasso.com cercando Festival di Letteratura Sociale oppure sostieni.link barra 28099 28099 oppure andando dalle pagine come lapolveriera.noblogs.org, dallapunta.org, eccetera, si possono se no trovare tutti i link del caso. Avevo annunciato, anticipato prima che avrei detto qualcosa del programma, ancora non pubblico, ma lo sarà subito da inizio della settimana che viene, quindi qui su Poglio It in grande anteprima il programma del Festival della Letteratura Sociale che inizia giovedì 27 maggio. Cerco di non essere lungo, quindi magari taglio qualcosina nei dettagli di ciò che si organizza, ma tutto sarà poi appunto consultabile già da lunedì per intero. Iniziamo quindi giovedì 27 nel primo pomeriggio, anzi ci sarà un evento di anticipo, ma di questo parlerà fra poco Edoardo Olmi, quindi non dico niente adesso. Inizia invece la 4 giorni continuativa del festival da giovedì 27 maggio, già dalle 16, con un panel, un tavolo, mangia, consuma, lavora, le prospettive dopo l'anno che ha demolito la vita culturale del paese, un tavolo organizzato da Firenze Rivista. Seguirà un altro tavolo attorno al tema del diritto alla città, con varie partecipazioni da più posti d'Italia e non solo, infatti anche dall'estero, a cura di Lorenzo Tripodi, che dialoga con il collettivo Orizzontale, con Francesco Careri e altre partecipazioni. Alle 20 della stessa sera, sempre di giovedì, verrà invece presentato Waltzing Matilda, è così facile che sembra difficile, il primo libro edito da Three Faces di Gianluca Bindi, assieme all'autore. Ci sarà poi un reading dinamico a cura di Ottavio Leo, Marco Brucio e Gigi Motion. Passiamo poi a venerdì 29, iniziamo subito nel primissimo pomeriggio, prima delle 15. Si inizia con un libro molto importante, Allora le foibe, la terza 2021 di Eric Gobetti, con l'autore, curato dal collettivo umanistico SDS, dal CUMA, il collettivo riformatosi da poco nell'Università di Lettere, appunto di Firenze. Seguirà poi la presentazione di Techno Sapiens, come l'essere umano si trasforma in macchina, assieme all'autore Daniele Signorelli in dialogo con Francesco Disa, un libro edito per di edizioni di editore quest'anno del 2021. Seguirà un tavolo digitale, l'abbiamo intitolato Internet odi et amo, ma è l'ACLAB fiorentino IFDU che dialoga attorno al libro Cyberbluff, Eris Edizioni 2021, assieme all'autore Ginox, e un altro libro sempre sul tema, sempre molto importante, Internet Mon Amour, assieme all'autrice Agnese Trocchi da Roma, un libro edito 2 anni fa per Elle Edizioni. Parleranno appunto assieme all'ACLAB IFDU. Seguirà la presentazione del libro Orso, scritti dalla Siria del Nord-Est. Orso ovviamente è Lorenzo Orsetti. Ci sarà il padre, Alessandro Orsetti, le attiviste internazionaliste, scusate, Cecilia Soldino e Sara Montinaro, quest'ultima autrice anche di Daesh, Viaggio nella banalità del male, un libro pubblicato sempre nel 2021 da Meltemi Edizioni. Finirà la giornata la presentazione e le letture di Veniamo dal basso come un pugno sotto il mento, un libro Battaglia Edizioni del 2020, lo scorso autunno, assieme all'autrice Alice Diacono. L'abbiamo peraltro già intervistata 2 puntate fa, qui proprio su Poglio It, grande anteprima con alcune sue letture. Rimando all'ascolto di quella puntata per farvi venire un po' d'acquolina in bocca su questa grande serata di venerdì. Passiamo a sabato 28 con l'apertura, sempre prima delle 15, con la sindrome di Peter Punk, elementi Kairos 2020, assieme all'autore Alessandro Meo Sante, con vari interventi di attualità. Seguirà un tavolo su cure e beni comuni, ci sarà Annalisa Pecoriello da Unifi, Andrea Gelfi della rivista Effimera e dialogheranno assieme a Nicola Capone, autore dello Spazio e la Norma, Ombre Corte 2020. E attorno al manifesto della cura per una politica dell'interdipendenza, un libro edito invece questo da Allegri nel 2021, assieme alle curatrici e traduttrici dell'opera Gaia Benzi e Marie Moise. Seguirà alle 17:30 circa la presentazione della Zeccatigre e il suo libro d'esordio, Ma chi ha detto che non c'è, edito da Red Star Press appunto nel 2021, proprio in questi giorni sta venendo stampato. lo presenteremo in anteprima appunto al festival. Seguirà la presentazione di Un sorriso insanguinato, Rizzos e Kazantzakis, sì, Kazantzakis, Poesia e lotta nella Grecia del Novecento, assieme a Edoardo Rialti, che conosciamo bene, e Crocetti, editore e traduttore, che sarà presente assieme a noi a parlare appunto con Edoardo e chi vorrà di questo libro. Ci saranno delle letture, un grande evento di poesia prima di cena, nella giornata appunto di sabato 29, a cui seguirà la mostre e fiere, freak show di monologhi mutanti e canzoni grottesche di Filomena Filo Sottile, da cui è stata tratta la Mostrosi Trans per un'alleanza transfemminista fra le creature mostre, anche questo edito da Eris, nel 2020. Domenica 30, ultimo giorno, inizia la mattina, già dalle 11 saranno favole al telefono, alcune letture di libri d'infanzia, una giornata per i bambini col pranzo, seguiranno altri eventi a cura di affluenti, anche di questi parlerà però più avanti Edoardo, fino poi a trovare alle 15 la presentazione delle pieghe nel corpo, del corpo, un libro edito da Mimesis 2 anni fa, assieme ai curatori del libro Antonio Donato e l'Edoardo Tonelli del collettivo Leib, a cura della Palestra Popolare di Polveriera e a cura della Palestra Popolare San Pietrino del CSA Next Emerson. Alle 16 di domenica 30 invece ci saranno Nuovi immaginari della narrativa italiana contemporanea, assieme a due autori di due libri editi da FQ che saranno moderati da Francesca Corpaci. Parliamo di Non tutto il male, Cronache della terra inabitabile e Crocevia di punti morti. Gli autori sono Andrea Cassini e Matteo Grilli. Seguirà alle 17 un tavolo sulla distopia, si intitolerà Nessun dove, ogni dove, le distopie del Novecento e la società del Covid. Bradbury, Atwood, Huxley, Orwell e Burdecchi, secondo Virginia Bardoni, Carla Fronteddu, Ilaria Gaspari e Edoardo Rialti, alle 17 di domenica 30. Conclude il pomeriggio La scommessa psichedelica, libro edito nel 2020 da Codilibet, con il curatore Francesco Di Vita e alcuni degli autori e autrici dei suoi saggi. Alla sera, invece, tanta musica con gruppo di cui a me sfugge il nome, folk molto bello che abbiamo già sentito anche l'anno scorso. Ci saranno anche altri due interventi musicali, probabilmente tra il sabato sera e la domenica sera. Sono gli interventi dei DPCM che hanno preparato con Daniele Di Fabrizio alla voce, che hanno preparato una scaletta di pezzi ad hoc e un coro per voci diretto da Marco Sebastianelli. Quindi ci sarà tanta musica live, in acustico per queste giornate. Tutti gli eventi finiranno prima del coprifuoco. Il programma esatto con gli orari e tutti i dettagli sarà appunto rilasciato a inizio settimana. Radio Wombat seguirà tutto il festival. Per chi volesse sostenere e permettere di non rischiare di far mancare gli abbeveraggi per questi bravissimi autori e autrici, può donare qualcosa sulla pagina di produzionidalbasso.com cercando Festival della Letteratura Sociale di Firenze. In ogni caso, molto più che donare, è importante partecipare, venire, il festival è aperto e tutti, tutte benvenuti in quei 4 giorni di maggio. Adesso non mi resta che passare parola a Edoardo Olmi per tenere lungo il filone sull'evento internazionale delle brigate della poesia rivoluzionaria. Di cui già abbiamo parlato la scorsa, di cui abbiamo annunciato lo svolgimento durante la scorsa puntata di Poio It. Ci saranno alcune letture, alcune tratte dalla registrazione dell'evento. Purtroppo l'audio non è di buona qualità, quindi ne abbiamo messe soltanto alcune in conclusione, altre saranno fatte appunto da Edoardo, ma non anticipo niente, passo la parola a lui. Ci vediamo a Firenze, presso il Chiostro della Badessa, la polveriera Spazio Comune, via Santa Reparata 12, dal 26 al 30 maggio per il Festival della Letteratura Sociale. Tutto in diretta, riarchiveremo tutto subito dopo. La prossima puntata di Poglio It sarà a giugno, ma beh, ci sentiamo sicuramente prima. Intanto buona domenica e vai Edo. Ciao, ciao Poyuit, e ben trovati, ben ritrovati a questa puntata un po' particolare che abbiamo deciso. Abbiamo pensato di fare appunto in forma registrata, non per ribadire, diciamo, una lontananza, ahimè, che fisicamente da qualche mese ormai ci costringe un po' tutti quanti nella situazione in cui siamo e che abbiamo attraversato appunto in questi ultimi mesi. Bensì perché questa sarà la puntata preparatoria, l'ultima diciamo puntata prima del sesto Festival di Letteratura Sociale che si terrà dal vivo questa volta finalmente dopo mesi in cui ci siamo visti e sentiti, ascoltati soprattutto ahimè online e per fortuna in ogni caso sulle frequenze ad esempio di Radio Wombat, ma dal 27 al 30 maggio ci sarà finalmente dal vivo, appunto in presenza, come ci siamo abituati a dire in questi ultimi mesi, il sesto Festival di Letteratura Sociale e alla Polveriera Spazio Comune di Via Santa Reparata. E quindi abbiamo pensato appunto a questa puntata speciale dedicata in buona parte alla sesta edizione del Festival di Letteratura, dalla sesta edizione del Festival di Letteratura Sociale, ma anche a un altro evento che c'è stato, che si è tenuto il 28 aprile scorso e che avrà sicuramente, diciamo, anche degli echi, degli ulteriori strascichi, diciamo così, anche nei giorni, durante le giornate del festival, perché appunto il 28 aprile scorso si è tenuto un reading internazionale di poesia promosso dal World Poetry Movement, coordinamento poetico internazionale che è presente in vari paesi e che si occupa, diciamo, sia di movimenti e sommovimenti poetici, ma anche di campagne in favore, ad esempio, di autori poeti che sono spesso discriminati, emarginati, censurati, se non addirittura in alcuni casi incarcerati nei rispettivi paesi, e il World Poetry Movement appunto tramite in particolare un poeta portoghese del movimento ha promosso per fine aprile scorso un reading internazionale di poesia dal titolo Red Carnation International Poetry Reading che come suggerisce, diciamo, il nome stesso è stato fatto, diciamo, anche in memoria di quella che nel 1974 fu la rivoluzione dei garofani rossi in Portogallo, che dopo vari anni, insomma, travagliati fin dalla dittatura, fin dai tempi appunto della dittatura di Salazar, nel 1974 in qualche modo pose fine alla fase più strettamente autoritaria appunto in Portogallo, il 25 aprile tra l'altro del 1974, dando vita, diciamo, a quella transizione che poi ha riportato in questo caso il Portogallo verso una fase democratica o più democratica, sebbene, insomma, sappiamo che le istituzioni liberali, le istituzioni rappresentative spesso non sono certamente, diciamo, quella voce, quell'espressione diretta di volontà popolare che spesso vorrebbero farci credere, ma diciamo, prendendo spunto appunto dalla rivoluzione dei garofani rossi in Portogallo, il World Poetry Movement ha lanciato l'idea di questo reading internazionale di poesia per fine aprile scorso, che è stato a sua volta ripreso e rilanciato anche da Jack Hirschman, che è un poeta di cui abbiamo sentito parlare diverse volte qui su Poyuit, quarto poeta laureato di San Francisco, nonché fondatore e cofondatore del progetto internazionale del Revolutionary Poets Brigade, che si occupa appunto di portare poesia e letture poetiche soprattutto in contesti, in spazi di cosiddetta conflittualità sociale. Le Revolutionary Poets Brigade tramite Jack Hirschman hanno raccolto e rilanciato l'appello del World Poetry Movement per il Red Carnation International Poetry Reading, che si è tenuto appunto in vari paesi del mondo, in tutti i paesi in cui sono presenti queste realtà World Poetry Movement e Revolutionary Poets Brigade, e c'è stata chiaramente anche una data italiana, un reading italiano, che si è tenuto mercoledì 28 aprile scorso con vari poeti e varie poete, aderenti in qualche modo vicine sia al World Poetry Movement che ai gruppi italiani delle Revolutionary Poets Brigade. E questo reading appunto è stato anche registrato, nonché fra l'altro molto, molto partecipato. Ci sono state, credo, almeno una ventina, se non di più, di autori che hanno partecipato soltanto alla data italiana. E quindi diciamo, abbiamo pensato per questa puntata registrata di Poyuit, ma che è un ponte appunto, in attesa di vederci e di rivederci finalmente in presenza dal vivo al Festival di Letteratura Sociale, oltre appunto a una parte dedicata al programma del festival, in cui inizieremo, in cui abbiamo iniziato, inizieremo a aprire un po' le porte, no? Diciamo, a svelare, a far intravedere cosa accadrà durante i 4 giorni del Festival di Letteratura Sociale in Polveriera. Abbiamo pensato di fare anche, di dedicare una parte di questa trasmissione, di questa puntata, anche al Red Carnation International Poetry Reading, che si è tenuto appunto a fine aprile del 2021. Abbiamo pensato, insomma, di mandare sia alcuni estratti, alcune letture direttamente dalla registrazione che è stata fatta del reading il 28 aprile, che chiaramente è un reading che purtroppo, data la situazione, si è dovuto tenere ancora online, ma vista anche la sua partecipazione, speriamo tutti che anche gli autori che ne hanno fatto parte e le voci che lo hanno animato possano tornare ben presto anche dal vivo, e che ci si possa incontrare anche dal vivo fra queste voci. E quindi abbiamo pensato sia di mandare alcuni estratti del Red Carnation Reading della data italiana direttamente dalla registrazione che è stata fatta il 28 aprile, mentre per quanto riguarda in particolare alcuni autori, alcune autrici che forse avremo il piacere di, che abbiamo avuto già il piacere di ascoltare qui su PoiUIT durante le scorse puntate, nei mesi scorsi, ma che forse speriamo di avere il piacere di ascoltare anche all'evento di Affluenti e Poiuit, che ci sarà al sesto Festival di Letteratura Sociale, che dovrebbe essere l'evento di Affluenti e Poiuit, probabilmente domenica 30, forse domenica 30 nel primo pomeriggio, e ci sarà appunto un reading e una presentazione che ancora non svelerò, ma che avrà come sue voci, diciamo, anche alcuni degli autori e delle autrici che hanno partecipato più o meno direttamente sia alle puntate degli scorsi mesi qua su PoiUIT, quanto anche appunto al Red Carnation Reading, alla data italiana del Red Carnation International Poetry Reading dello scorso 28 aprile. E quindi io direi appunto di iniziare proprio con una di queste voci, che è un autore che in realtà non abbiamo ancora avuto modo di ascoltare qua su PoiUIT, ma è qualcuno che penso ci piacerebbe invitare presto, se ce ne sarà la possibilità. È una voce poetica, fra l'altro, e non solo poetica, perché lui si occupa molto anche di letture dal vivo, di poesia performativa, ma per esempio, oltre che poeta, scrittore, è anche musicista. È un poeta musicista, un poeta performer che negli anni, ad esempio, ha curato e realizzato molti reading delle sue stesse poesie, fatti dal vivo anche con strumenti musicali artigianali che lui stesso crea e per le varie occasioni, con materiale appunto molto basilare, appunto con un'autoproduzione artigianale di questi strumenti musicali da lui stesso pensati ed inventati. Questo autore di cui sto parlando, che si chiama Marco Cinque, è uno scrittore, un poeta performer romano, nonché attivo da tantissimi anni sulla scena romana, che io ho avuto il piacere non solo di conoscere, ma con cui ho avuto il piacere di collaborare per diversi anni a Roma, e è attivo da tanti anni ormai, insomma da decenni almeno, sulla scena romana e non solo. Fra l'altro, oltre che un poeta, un musicista e un performer molto bravo, è anche un attivista sociale da tanti anni, che si è occupato molto, ad esempio, di diritti, diciamo, di persone incarcerate, ad esempio di diritti di nativi americani che sono stati e sono tuttora nel braccio della morte negli Stati Uniti. Lui ha realizzato anche dei veri e propri progetti nelle carceri, ad esempio, di poesia fatta insieme ai detenuti nelle carceri italiane e non solo, e ha fatto arrivare in Italia anche vari autori d'oltreoceano, vari autori, vari poeti, vari artisti che negli anni, diciamo, sono stati non solo discriminati, ma spesso anche proprio incarcerati e perseguitati negli Stati Uniti e non solo, fra cui anche alcuni nativi americani che si sono trovati, sono stati, forse in alcuni casi credo siano tuttora, appunto, nel braccio della morte negli Stati Uniti. Marco Cinque è, oltre a tutto questo, e oltre ad essere anche un carissimo amico che ho avuto il piacere di rivedere per adesso purtroppo sempre online durante il Red Carnation Reading, è anche, insieme ad Alessandra Bava, il cofondatore del gruppo romano, del nucleo romano della Revolutionary Poets Brigade, di cui io ho fatto parte all'incirca dal 2012 al 2015. E fra l'altro Marco Cinque, cofondatore delle Brigate Romane insieme ad Alessandra Bava, la quale Alessandra Bava doveva essere anche lei presente al reading, poi per dei motivi familiari non ha potuto esserci, ma diciamo lo spirito delle Brigate Romane è stato tenuto ben alto dal nostro Marco Cinque, di cui vi vado a leggere una delle due poesie che ha letto durante il reading, che si intitola Mare Nostrum. Se potesse avere memoria il mare e le sue onde mediterranee ricordassero questi occhi incontratisi da ogni sua sponda. Se ogni passaporto finalmente bruciasse e le luci delle nostre identità risorgessero ogni giorno, scritte soltanto in ciò che siamo e che facciamo. Se dopo aver seminato buoni propositi, questi continuassero a germogliare nei nostri piccoli ma rivoluzionari gesti quotidiani. Se il premio fosse vincere la sconfitta per renderla consapevole di sé fino alla nudità della radice, permettendo nuove ipotesi di crescita. Se Dio diventasse donna e tutti gli uomini finalmente la piantassero di sentirsi Dio. Se la quota esatta della bellezza si raggiungesse nella sua stessa indefinibilità. Se non passassimo metà del tempo a desiderare e l'altra metà a rimpiangere, poiché qualunque cosa si abbia, poi non sarebbe mai abbastanza. Se capissimo che il sangue, preteso dalla giustizia, è rosso, come quello sparso dall'ingiustizia. Se accettassimo di riconoscere il nemico che ci abita e che imputiamo all'altro, cercando ancora una pace che sia pace da tutte le prospettive. Se l'uguaglianza vivesse nel rispetto del diverso e non nella tirannia degli uguali. Se l'ultimo dei Moicani fosse sempre il primo dei nostri pensieri. Se la poesia si facesse rivolta contro la tirannia degli accapo, oltre il muro del foglio, nostro confine. Se sapessimo tradurre questi sé in tanti sogni viventi, allora forse ogni goccia di questo mare, nostro mare, ci ricorderà. Come un passaggio di sole ci ricorderà. Come il cielo che ha pianto tutto il giorno ci ricorderà. Come i fiori, i libri, gli arrivederci ci ricorderà. Come questo viaggio che ci riporta indietro ci ricorderà. E ci ritroverà figli della stessa casa, della stessa terra, dello stesso mare. E ancora ci ricorderà, ci ricorderà, ci ricorderà. E questa era Mare Nostrum di Marco Cinque. di cui probabilmente troveremo e troverete anche i suoi libri, editi in parte anche da Edizione Ensemble al banchino che, come tutti gli anni, al Festival di Letteratura Sociale terremo con i libri di affluenti, con le novità editoriali, ma anche con tanti altri libri di Edizione Ensemble, fra cui anche quelli che Marco Cinque ha pubblicato con la casa editrice. Marco Cinque, che fra l'altro conosce molto bene Jack Hirschman, e che con Ensemble ha curato, insomma, insieme ad Alessandra Bava, anche la prima antologia delle Revolutionary Poets Brigade di Roma. Ma sempre con Ensemble, Marco ha pubblicato anche, ad esempio, un bellissimo libro che si intitola Muri e Mari, che raccoglie appunto i testi poetici ispirati, in questo caso soprattutto alla tragedia, insomma, che tutti quanti conosciamo ormai da troppo tempo, dei migranti e dei naufraghi nel Mediterraneo. E sono i testi poetici con cui Marco Cinque porta avanti appunto anche questi suoi lavori di poesia e musica, fatti molto spesso con strumenti artigianali da lui autoprodotti, e con i testi appunto pubblicati nell'edizione Ensemble di Muri e Mari, che, insomma, penso sarebbe sicuramente una delle varie belle cose che si troverà anche quest'anno al banchino di Ensemble Affluenti, e non solo ovviamente, ma anche a tutti gli altri stand, a tutti gli altri banchini, tutte le altre case editrici indipendenti del festival, e una delle tante cose belle per cui anche quest'anno vale la pena venire al Festival di Letteratura Sociale, e che ha resistito, insomma, per la sua sesta edizione anche in mezzo a tutto questo, e nonostante la situazione, insomma, non semplice che tutti quanti sappiamo che abbiamo attraversato e che ancora stiamo attraversando. E quindi, salutando anche Marco Cinque, che chissà se è all'ascolto, e nel caso gli mando tantissimi saluti, con l'augurio di potersi riabbracciare presto a Roma anche con lui. E restando, diciamo, in tema romano, restando, diciamo, sui versanti, sui colli, diciamo così, poetici capitolini, un'altra autrice che abbiamo, in questo caso sì, abbiamo avuto il piacere di ascoltare nelle scorse puntate qui su PoiUIT, e che ha partecipato, che ha presentato in trasmissione la sua ultima raccolta edita per la collana Herkind, di Edizione Ensemble, collana di poesia interamente al femminile, diretta fra l'altro proprio da Alessandra Bava, cofondatrice insieme a Marco Cinque della Roms Revolutionary Poets Brigade. Questa autrice, che si chiama Chiara Nobilia, e che ha presentato qua su PoiUIT appunto nei mesi scorsi la sua raccolta Svolgermi Ramificata, Chiara avrebbe voluto, diciamo, partecipare, avrebbe molto voluto partecipare di persona, per quanto il reading ovviamente per adesso fosse online, ma avrebbe voluto partecipare direttamente alla data italiana del Red Carnation Reading, ma anche nel suo caso alcuni impegni familiari, insomma personali, non gli hanno permesso di esserci, come diversamente da Marco Cinque, che invece c'era di persona durante il reading. E Chiara non ha potuto esserci direttamente di persona durante il reading, ma ci ha tenuto altrettanto a darci un suo testo, una sua poesia in lettura, che è stata letta, credo al termine del reading, se non sbaglio, da altri dei poeti partecipanti alla data italiana del Red Carnation Reading. Questa poesia di Chiara Nobilia si intitola Soltanto lei. Non vorrei restassero fuori dalla poesia i 5 milioni di italiani ridotti in povertà, secondo stime Istat del 2018. Il fatto è che ridurre in povertà è una poliremata da molti considerata inidonea per la riga poetica, straripante di strazianti devastazioni. Credo, invece, che tra le funzioni del linguaggio, quella poetica più di tutte possa far urlare quei 5 milioni di uomini che stanno affogando. Ognuno di loro vorrei si di ognuno di loro vorrei si occupasse la poesia, e che, invece di starsene rarefatta, entrasse nelle loro case fredde e li sostenesse con una mano sulla fronte, mentre vomitano le bestemmie che il mondo non ascolta. Soltanto lei può dire a ognuno di loro: io ti ho visto. E questa era soltanto lei di Chiara Nobilia, e direi insomma un bellissimo auspicio che Chiara ci manda per la poesia presente e prossima avventura. E speriamo davvero, insomma, che questo ascolto, la poesia, ce lo possa regalare, insomma, dai prossimi mesi, dalle prossime settimane, e anche, perché no, insomma, speriamo durante le giornate del festival, dove all'evento di affluenti di domenica speriamo di poter conoscere, incontrare di persona anche Chiara, che appunto abbiamo già ascoltato qua nei mesi scorsi su PoiUIT, ma ci piacerebbe potersi essere parte anche del reading appunto di Affluenti e PoiUIT, e che si terrà al festival, al sesto festival di letteratura sociale in Polveriera, dove speriamo di poter conoscere, di poter avere dal vivo anche appunto Chiara Nobilia e il suo libro Svolgermi Ramificata. Un altro autore che abbiamo ascoltato proprio qua, proprio il mese scorso, se non sbaglio, qua su PoiUIT, è un poeta e scrittore di Bologna che si chiama Bartolomeo Bellanova, che ha appena pubblicato, è uscito proprio in questi giorni, la sua terza raccolta poetica, la sua terza raccolta di poesie per la collana di Affluenti con Edizione Ensemble, la quale raccolta poetica si intitola Diramazioni, e gli ascoltatori di PoiUIT, insomma, penso si ricorderanno sicuramente dell'anteprima, perché il libro era, stavamo chiudendo l'editing, la correzione di bozze proprio in quei giorni. Quindi il mese scorso abbiamo potuto fare un'anteprima di Diramazioni in uscita per la collana di Affluenti con Ensemble di Bartolomeo Bellanova, che era appunto in diretta qua con noi su PoiUIT, e che ci ha parlato un po' di questa sua raccolta e del percorso appunto delle varie diramazioni umane, esistenziali, ma non meno sociali e sociopolitiche, che lo hanno portato appunto a quest'opera e a questa terza raccolta che si intitola Diramazioni. Bartolomeo, che vi ricorderete, insomma, dalla presentazione di aprile scorso, è anche fondatore e redattore di un collettivo online di scritture dal mondo, di un blog che si chiama La Macchina Sognante, dove, diciamo, vengono pubblicati ogni 3 mesi, se non sbaglio, mi sembra sia trimestrale o quadrimestrale, scritture militanti e scritture antagoniste da un po' tutto il mondo, no? Che anche in questo caso spesso vanno a riguardare anche vicende come quella, ad esempio, dei diritti dei popoli indigeni e anche di varie lotte, di varie mobilitazioni che ci sono a livello internazionale, anche in questo caso spesso per autori, poeti o insomma personaggi, diciamo, pubblici che sono in qualche modo spesso discriminati, censurati, se non propriamente e strettamente anche incarcerati nei rispettivi paesi. Anche Bartolomeo, quindi, insomma, è un autore militante, è un autore che fa, diciamo, della sua scrittura e della sua poesia un veicolo, un vettore fondamentale anche di impegno sociale, di impegno politico. Bartolomeo sarà una delle voci, un'altra, diciamo, delle voci vive e penso, insomma, che sentiamo come importanti dell'evento di Affluenti e PoiUIT che ci sarà al Festival di Letteratura Sociale. Bartolomeo sarà con noi da Bologna per l'evento di Affluenti, e sarà con noi proprio per presentare, stavolta non per un'anteprima, ma per una presentazione vera e propria di Diramazioni, che finalmente è uscito, e quindi Bartolomeo lo presenterà insieme a noi durante le giornate del festival. E ovviamente insomma, avremo la possibilità, insomma, il piacere di trovare il libro, di trovare diramazioni di Bartolomeo Bellanova anche al banchino di ensemble e di affluenti presso il festival alla Polveriera. Bartolomeo, diciamo, da buon scrittore militante, ha partecipato, ovviamente, è stato invitato a partecipare anche alla data italiana del Red Carnation Reading. Sebbene lui non faccia, diciamo, strettamente parte né del World Poetry Movement né dei gruppi italiani, insomma, delle Revolutionary Poets Brigade, ma è, diciamo, uno degli autori, una delle personalità affini in qualche modo a entrambi questi progetti, e quindi abbiamo pensato di estendere gli inviti per il reading italiano anche a possibili autori, possibili autrici che negli anni in qualche modo sono state vicine e hanno collaborato o hanno anche semplicemente condiviso lo spirito che è alla base tanto del World Poetry Movement quanto delle Revolutionary Poets Brigade. Fra questi abbiamo invitato appunto per il Red Carnation Reading anche Bartolomeo Bellanova, il quale ci ha letto una poesia molto bella dedicata al suo padre partigiano, che è stato partigiano, la quale poesia si troverà, sarà pubblicata, sarà edita appunto anche nella sua raccolta appena uscita per la collana di affluenti con edizione ensemble, ovvero appunto diramazioni. Questa poesia di Bartolomeo Bellanova si intitola In tua memoria, padre. Padre mio, che cosa pensi dal tuo trullo nel cielo, dove da troppi anni alloggi senza esserne stato invitato? Tu che entrasti a Bologna quel 21 aprile 1945 a dorso di mulo, insieme ai tuoi fratelli della brigata Matteotti e gli occhi biondi di mia madre, cucinasti sulla tua pelle olivastra. Scalaste insieme l'Orsa Maggiore sul refrain di 100 boogie-woogie e poi, esausti, vi sfamaste i cuori col pane dolce, le patate e le cosce di pollo. Di un sogno di carne, un'estasi di cosce, cosce delle vostre cosce, carne della vostra carne vi baciaste sotto il cielo terso, depurato dalla morte. Ti aveva nascosto in cantina mia madre, ti aveva sottratto da un vagone piombato quel maledetto 8 settembre 1943. Ti aveva atteso mia madre, a lungo come Penelope Ulisse, tu che avresti voluto tornare da lei, tu che non conoscesti la maga Circe, ma solo il fischio secco delle pallottole. Non erano porci i tuoi compagni partigiani, ma grilli in amore che saltavano sulle mine come chicchi di riso in risaia. Che cosa hai pensato, padre, con baffi staccati dal gelo, in quel tremendo inverno del 44, impantanato a un passo dalle due torri violentate, a un passo dalle corde vocali, lacerate dalle torture? A un passo dalla sirena antiaerea che rimbalzava sulle pareti, glabre dello stomaco? Che cosa hai pensato quando hai visto sotto la cenere mai spenta l'acciaio nero che ritorna a tatuare teschi e fasci? La bandiera nera che torna a gardire, la camicia nera che ammicca, manipola coscienze stremate. Sparge oblio ammanciati, come sale sui tagli delle tue mani screpolate? Che cosa pensi di un paese che si è marcito lento come le frasche morte nei tratturi sommersi dalla neve? A dorso di mulo, mi dici, a dorso di mulo, figlio mio, vai a cercare il siero dell'umanità perduta. Vai, che sarà lunga la notte di imboscate improvvise, prima che spunti un'alba nuova. E questa era In tua memoria, padre, di Bartolomeo Bellanova, e poesia pubblicata, appunto, appena pubblicata anche nella sua ultima raccolta di diramazioni per la collana di Affluenti con Edizioni Ensemble. Bartolomeo, che appunto sarà con noi per l'evento di Affluenti durante il Festival di Letteratura Sociale, e che saluto, tra l'altro, visto che abbiamo avuto, insomma, il piacere di ospitarlo appena il mese scorso, proprio qua su PoioIt, quindi chissà che non sia all'ascolto in questo momento anche il nostro Bartolomeo. E quindi, diciamo, queste erano alcune delle voci che abbiamo ascoltato il 28 aprile scorso durante la data italiana del Red Carnation International Poetry Reading, dal quale, fra l'altro, uscirà, dovrebbe essere prodotta, diciamo così, anche un'antologia cartacea, e con tutti i testi, che raccoglierà tutti i testi letti durante la data italiana del reading, in quanto le date internazionali del reading stesso daranno vita poi ad una, credo, sesta o settima, forse, comunque, insomma, ad una nuova ulteriore antologia internazionale delle Revolutionary Poets Brigade, che sarà curata probabilmente anche per questa edizione proprio da Jack Hirschman. Ma su proposta di Anna Lombardi, ovvero la coordinatrice italiana del reading, del Red Carnation Reading, abbiamo pensato di dare vita anche ad un'antologia che raccolga tutti i testi letti da parte dei poeti e delle poete partecipanti alla data italiana del Red Carnation Reading. E quindi, diciamo, queste erano alcune delle voci che abbiamo ascoltato il 28, di cui alcune delle quali, insomma, speriamo di avere anche a fine maggio, probabilmente domenica 30, per l'evento di Affluenti e PoioIt al sesto Festival di Letteratura Sociale in Polveriera. Chiudo questa parentesi dedicata al Red Carnation International Poetry Reading leggendo il testo, la poesia che io stesso ho letto durante il reading. E che, fra l'altro, diciamo, po poveri, poveri loro dell'organizzazione, mi hanno dovuto mettere all'inizio, proprio perché lo stesso giorno c'era anche, guarda caso, più o meno allo stesso orario, anche l'assemblea per il Festival di Letteratura Sociale in Polveriera. Quindi, insomma, per non mancare o per poter essere presente almeno ad una parte anche dell'assemblea, ho chiesto, diciamo, di poter ho chiesto ad Anna, insomma, di poter essere messo all'inizio della scaletta, insomma. La saluto, la ringrazio nel caso in cui sia all'ascolto. Fra l'altro, Anna Lombardo, insomma, qui avevo detto che avremmo mandato un estratto perlomeno del Red Carnation Reading della data italiana qua su PoioIt. La saluto, la ringrazio, insomma, anche per avermi permesso di partecipare tanto al reading quanto poi all'assemblea in Polveriera, permettendomi di leggere questo testo, che è una poesia scritta qualche anno fa, era 2018-2019, nel pieno, diciamo, di quella fase politica e sociopolitica che all'epoca, diciamo, prendeva il nome, a cui veniva dato il nome del cosiddetto governo del cambiamento, no? E si parla appunto del periodo in cui in Italia un governo populista e un ministro degli interni palesemente xenofobo si preoccupavano, insomma, molto e ossessivamente di chiudere quanto più possibile le porte, di chiudere quanto più possibile le possibilità di sbarco da parte dei migranti sulle coste italiane, e non solo, insomma, si adoperavano non solo per impedire quanto più possibile e per mettere al bando, tramite i cosiddetti decreti di sicurezza, quelle poche navi dell'ONG che operavano nel Mediterraneo per salvare appunto le persone che naufragavano, che rischiavano di naufragare, in mezzo a quel mare, decreti di sicurezza che fra l'altro tuttora, se non sbaglio, i decreti di sicurezza di quello che all'epoca era il ministro Salvini sono tuttora in vigore e tuttora purtroppo impediscono a molte navi delle ONG di salvare vite umane nel Mediterraneo, ma come sappiamo quel governo e quel ministro degli interni per giorni, in alcuni casi per settimane, ha tenuto, penso letteralmente si possa dire, segregati dei migranti appena salvati dal mare, insomma, da un naufragio, da un rischio di naufragio da parte delle navi delle ONG che furono tenuti, che sono stati tenuti per giorni, in alcuni casi per settimane, al largo delle coste italiane, chiusi, diciamo, nelle stesse navi delle ONG, addirittura in alcuni casi in alcune navi della Marina Militare. Viene in mente il caso Gregoretti, ma viene in mente subito dopo anche il caso Open Arms, per i quali, tra l'altro, ricordo che Salvini, in un caso, nel caso della Gregoretti, ha seriamente rischiato di andare a processo e per cosiddette prerogative politiche, come le hanno definite, no? Di quello che era appunto il cosiddetto governo del cambiamento, è stato salvato per adesso dal processo sulla Gregoretti, ma a settembre Salvini andrà invece a processo per il caso dell'Open Arms, di cui insomma penso tutti quanti ci ricordiamo, in quell'estate del 2019, in cui per settimane dei migranti furono tenuti al largo delle coste italiane su una nave che li aveva salvati dal Mediterraneo. Prima, fin quando una persona, insomma, che era alla guida di quella nave, non decise di forzare il blocco imposto dalle forze armate italiane e di portare in salvo e di far sbarcare, in ogni caso, e ad ogni costo, insomma, a qualsiasi condizione, quei naufraghi e quei migranti. Tutto questo, diciamo, l'idea di leggere e di rileggere questa poesia, che fra l'altro sarà edita, sarà pubblicata nel mio prossimo libro che uscirà, che dovrebbe uscire a luglio, sempre per la collana di Affluenti con edizione Ensemble. L'idea di leggere e di rileggere questa poesia dedicata al cosiddetto governo del cambiamento in occasione del Red Carnation, della data italiana del Red Carnation International Poetry Reading, chiaramente è dipeso anche dal forte senso di attualità, no? Che in qualche modo ancora quella vicenda, quelle vicende. E quindi questi versi e queste parole, per me, insomma, secondo me, sentivo che ancora attualità, che ancora rivestivano e che ancora pulsava in questi versi, in quelle vicende e nelle parole, diciamo, che ho cercato di fare emergere da quei fatti, tanto più in un momento in cui appunto quell'ex ministro degli interni rischia persino di andare a processo per quei fatti stessi, e nello spirito di un reading, ovvero appunto il Red Carnation International Poetry Reading, che è stato lanciato dal World Poetry Movement e rilanciato dal Revolutionary Poets Brigade, anche proprio come risposta collettiva, come risposta poetica d'assieme a livello internazionale nei confronti dell'ulteriore deriva autoritaria e dell'ulteriore deriva fascista o filofascista in alcuni casi vera e propria, o comunque sicuramente tendenzialmente xenofoba e razzista, che il sistema capitalista, che il capitalismo in questa sua ulteriore fase di crisi, legata anche alla pandemia, ma anche a tutto quello che era successo e che succedeva fin da prima, ben prima della pandemia, ulteriore deriva autoritaria che il capitalismo, il sistema capitalista sta attraversando e sta prendendo in questa fase, e di fronte alla quale appunto questi collettivi poetici, questi gruppi e questi progetti di poesia sociale e di poesia militante hanno sentito il bisogno di far sentire, di levare, di alzare le proprie voci e di dare vita appunto a un'ulteriore energia, un ulteriore incontro poetico che convogliasse il più possibile le energie e le forze poetiche e sociali contro quello che sta accadendo e contro questa ulteriore deriva autoritaria e di fronte alla quale per l'ennesima volta questo sistema sociale ed economico ci sta portando. E quindi questo è il governo del cambiamento. Parla di leggi sull'immigrazione, come di aste al ribasso sui prezzi delle televendite, come se le onde del mare fossero conti corrente, i migranti codici di una transazione nei flussi e riflussi del miracolo italiano. Re Dibba tornava dalla guerra. Per un paese chiamato democrazia, dove i Kalashnikov sono decreti sicurezza sulle fosse comuni del Mediterraneo. Nessuno Stato avanzi la pretesa di disegnare il mondo per com'è. Nessuna terra chiude i nostri porti in suoni gutturali da chiamare patria. D'altra parte si sa che il potere, come i giochi di ruolo e i gratta e vinci, è fatto apposta per sdrammatizzare. Sbirri sul pezzo si accostano ai reading e alle chitarre, in sere d'estate dagli accordi improvvisati, che in fondo non c'è cosa più nostalgica della libertà di espressione. In TV si commentano programmi elettorali come fantini sulla mossa al palio, ma il loro non avrà gli onori di un cavallo scosso. Se in Italia non ci sono più partiti eversivi, dice il candidato Premier, è sicuramente anche grazie a noi. Vogliono fare una rivoluzione gentile, nel rispetto delle regole che ci insegna a far l'amore, senza mai sgualcire le coperte. Nei loro ventri di bravi ragazzi troveranno allora sempre rifugio quegli imprenditori onesti che ti fanno sgomberare con i baci di consolazione della Digos. Tanti piccoli Salvini al ciglio della strada ed i manuali di legittima difesa dentro al guardaroba, una fiction che altrimenti finirebbe male. La Varsavia della Terza Repubblica costringendo i Rom a pagare il biglietto per acquistare ruspe e caterpillar, pizze con le navi dell'ONG alla festa nazionale di Pontida, dopo che il generale Ferragosto ed un papete in scala 40 hanno portato i souvenir della campagna di Russia. Con il telecomando giocano a battaglia navale, colpiti e affondati nell'eco degli abissi, di grida dai campi di concentramento della Libia, o raid aerei dopo il calciomercato. Sul libro cuore del telegiornale hanno arrestato gli assassini comunisti, che devono marcire in galera fino alla fine dei loro giorni, con gli stessi soldi dei contribuenti con cui facevano gli espropri proletari, battendo dentro centinaia di innocenti, sopravvissuti al genio senza nome dell'eroina. Rifugiati politici in casa nostra, con le guerre procurate a casa loro. Generazioni fucilate per emendamento, desaparecidos nell'arco costituzionale. Ognuna ostaggio di un paese che elargisce libertà senza martirio. L'Italia è una promessa che non si può mantenere. E questo era il governo del cambiamento, scritta ai tempi nefasti, non che quelli attuali ovviamente siano particolarmente migliori o di buon auspicio, quelli che erano i tempi appunto del governo Lega 5 Stelle, e i cui strascichi insomma sono tuttora vivi e la cui, diciamo, ulteriore deriva attuale in Italia e non solo non è di certo, insomma, né rassicurante né casuale rispetto a tutto quello che è accaduto prima o immediatamente prima. E quindi, diciamo, con questa lettura saluto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di questa puntata un po' particolare di Poi Uit che abbiamo, diciamo, registrato in attesa di potersi finalmente rivedere dal vivo al Sesto Festival di Letteratura Sociale alla Polveriera Spazio Comune di Via Santa Reparata, che si terrà dal 27 al 30 maggio, dove appunto, lo ricordo, probabilmente nel pomeriggio, nel primo pomeriggio di domenica 30, avremo modo anche di ascoltare dal vivo alcune delle voci che non solo sono state qua nel corso dei mesi su PoiUIT, ma che hanno partecipato in alcuni casi direttamente o indirettamente anche alla data italiana, appunto del 28 aprile scorso, del Red Carnation International Poetry Reading, promosso dal World Poetry Movement e rilanciato dalle Revolutionary Poets Brigade. Fra l'altro, evento di domenica 30, probabilmente al Festival della Letteratura Sociale in Polverera, dove oltre agli autori e le autrici di Affluenti e di PoiUIT avremo forse anche qualche altra sorpresa che per adesso non sveliamo, non anticipiamo, ma insomma invitiamo tutti quanti e tutte quante sia all'evento di poesia di domenica, quanto a tutte le altre presentazioni e tutti gli altri eventi nel corso delle giornate del festival, che insomma penso quest'anno forse ancora di più vale la pena ascoltare e vale la pena sostenere in Polveriera, e visto che appunto è un primo, penso, momento e passaggio fondamentale anche della ripresa degli spazi e della ripresa delle nostre vite, che tutti quanti insomma speriamo di rimettere in moto anche a partire dal prossimo Festival di Letteratura Sociale. E quindi grazie, grazie a tutte e ci vediamo dal 27 al 30 maggio al sesto Festival di Letteratura Sociale presso la Polverera Spazio Comune di via Santa Reparata 12 Rosso, e domenica 30 con l'evento del reading di poesia di Affluenti PoiUIT, con presentazione di diramazioni di Bartolomeo Bellanova e reading di alcuni degli autori e delle autrici che sono stati ospiti qua su PoiUIT e che hanno partecipato alla data italiana del Red Carnation International Poetry Reading. Ciao! Leggere è un modo per viaggiare. Yeah! What's up, y'all? This is your boy D-Mike. See, I usually do songs with like hooks and concepts and shit, right? But fuck that, man. I'm trying to go platinum. So I'm about to rock this shit. Check this out, y'all. Direi che è il modo più bello per viaggiare.